La Francia crescita zero, Germania più 0,8%. Sugli appalti per Expo arriva anche l'inchiesta della Corte dei Conti. La sezione lombarda decide di indagare dopo gli arresti dei giorni scorsi. Parla l'imprenditore Maltauro. Incinta, 27 anni, cristiana, è stata condannata a morte da un tribunale del Sudan. L'accusa è di apostasia. Il tribunale le ha chiesto di rinunciare alla sua fede e lei ha rifiutato. In Turchia si continuano a contare i morti dell'esplosione nella miniera, sono quasi 300. Ieri contestazioni ad Erdogan, mentre circola la foto di un suo collaboratore che prende a calci un manifestante. Roma, maglia nera delle tasse per le imprese artigiane. Secondo CNA, che ha analizzato il fisco locale, nella capitale si tocca il picco di una pressione al 74,4%. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete le potete commentare al 349-238-6666 via SMS. Potete scriverci Effetto Giorno a radio24.it. C'è la nostra pagina Facebook e volendo c'è anche il mio account Twitter. Mi trovate Simone Spezia. Iniziamo dalle notizie economiche oggi e in particolare dai dati sul prodotto interno lordo che non sono buoni. Una marcia indietro dell'economia che nel primo trimestre di quest'anno ha riportato l'Italia 14 anni fa, come una macchina del tempo che secondo l'Istat ci ha fatto perdere tutti questi anni di crescita, fermando le lancette su un prodotto interno lordo calato dello 0,1% rispetto all'ultimo trimestre del 2013, che comunque si era chiuso con una lieve crescita dello 0,1% e faceva ben sperare su una inversione di tendenza allontanando fantasmi della stagnazione. E rispetto all'anno scorso la diminuzione è pesante, meno 0,5%. La piccola salita del quarto trimestre 2013 e la piccola discesa del primo trimestre 2014 indicano, secondo l'Istat, da un lato la fine della caduta e dall'altro una tendenza alla stagnazione su livelli appunto di 14 anni fa, quando la tendenza però dell'economia era alla crescita. Allargando il quadro, il dato si inserisce in un panorama fatto da Eurostat con poche eccezioni per il primo trimestre di quest'anno. L'area euro con una crescita economica sotto le attese, più 0,2%, nelle previsioni era circa il doppio. La Francia con una crescita azzerata, fa da contrasto invece ancora l'economia tedesca, cresciuta dello 0,8%, registrando l'espansione più forte da 3 anni a questa parte. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo il quadro dall'Italia e in parte anche dall'Europa, torneremo ad analizzarlo più avanti e proprio a proposito di Europa, oggi c'è stato il bollettino della Banca Centrale Europea. Appuntamento fisso, anche un po' ripetitivo, se non fosse per quella precisazione che riguarda Italia e Spagna a proposito dello spread. Partiamo però da quello che è il core business. Secondo Francoforte non ci sono chiari segni di deflazione nell'eurozona, i rischi sono molto bassi, nonostante gli economisti delle istituzioni private abbiano rivisto al ribasso le loro previsioni sull'inflazione. In ogni caso il board è pronto a intervenire anche attraverso strumenti non convenzionali. La ripresa economica dell'area euro prosegue in linea con le attese, con la domanda interna sostenuta dalla politica monetaria accomodante, migliori condizioni di finanziamento e i progressi compiuti sul risanamento dei conti pubblici e delle riforme. Dunque, come da copione, richiamo agli Stati membri a non abbassare la guardia. Timidi segnali di miglioramento anche sul fronte occupazione. Possibili fattori di instabilità, le tensioni geopolitiche e l'indebolimento della crescita nei paesi emergenti. E poi lo spread e l'Italia e la Spagna. La fiammata dei differenziali fra il 2011 e il 2012, scrivono all'Eurotower, non fu effetto solo dei fondamentali economici, ma anche della fuga dal rischio e del timore di contagio da altri paesi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono dati interessanti per quanto riguarda l'economia italiana che arrivano anche dall'INPS, che comunica che ad aprile sono state autorizzate 86,8 milioni di ore di cassa integrazione. C'è un calo del 13,2% rispetto all'aprile del 2013 e calano anche le domande di disoccupazione. In marzo 121.561, il 3,7% in meno rispetto al marzo dello scorso anno. È arrivato il via libera dal Consiglio di amministrazione RAI alla delibera per il taglio dei compensi. Entro il limite dei 240.000 euro, sia quello stabilito dal governo, nel provvedimento sono compresi anche gli emolumenti per il presidente Anna Maria Tarantola. Gli aggiornamenti dall'inchiesta Expo. La Procura regionale della Corte dei Conti per la Lombardia ha avviato un'indagine per accertare possibili profili di danno erariale nella gestione delle gare d'appalto per Expo 2015 a seguito dell'inchiesta della Procura di Milano sulla cosiddetta cupola degli appalti. È il nuovo inevitabile passaggio che piomba sull'esposizione internazionale. Ieri gli interrogatori all'imprenditore Maltauro e Catozzo, ex esponente ligure dell'UDC, entrambi hanno confermato l'esistenza di un sistema di tangenti che pilotava appalti per i lavori dell'Expo, ma anche di parecchi ospedali lombardi e perfino del progetto della Città della Salute. Maltauro pagava a Catozzo, Catozzo poi divideva con Frigerio, Greganti e Grillo. Ha pagato in tutto circa 600.000 euro Maltauro, ma in cambio ha portato a casa lavori per circa 170 milioni di euro in un anno. A dirlo ai PM è lo stesso Catozzo, originario della provincia di Rovigo ed ex segretario dell'UDC in Liguria. Era lui, assieme all'ex parlamentare DC Gian Stefano Frigerio, a fare da intermediario tra le imprese e la politica che in modo più o meno diretto avrebbe controllato l'assegnazione degli appalti. Catozzo e Maltauro saranno interrogati di nuovo la prossima settimana. Ieri ai PM hanno spiegato l'esistenza di appalti truccati e di tangenti con promesse di carriere ai pubblici ufficiali complici. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di un'altra inchiesta della quale vi abbiamo parlato diffusamente ieri, si sta parlando in queste ore, ossia quella su UbiBanca, interviene il presidente del Consiglio di Sorveglianza d'Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, che è indagato nell'inchiesta della Procura di Bergamo. Si dice profondamente sorpreso, sorpresa che nasce dalla convinzione di essersi sempre mosso in totale e leale osservanza delle regole e delle leggi. Vi abbiamo fornito poco fa i dati sui sussidi di disoccupazione, o meglio sulle richieste di disoccupazione e sulle ore di cassa integrazione richieste ad aprile. Ebbene, proprio a proposito di questi temi è stato appena approvato alla Camera il decreto lavoro. Alessandra Schepisi. Eh sì, è così Simone, il decreto lavoro è legge con 279 voti favorevoli, 143 contrari. La Camera ha approvato il provvedimento sul quale il governo aveva incassato la fiducia martedì, provvedimento che introduce nuove norme dai contratti a termine all'apprendistato, misure anche che dovrebbero favorire il rilancio dell'occupazione per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, un'approvazione definitiva in terza lettura. Ricordiamo un voto che sarebbe dovuto arrivare in realtà già ieri sera, ma che poi è slittata ad oggi perché nei lavori della Camera si è intrecciato con un'altra questione calda su cui si sta consumando un duro scontro tra 5 Stelle e Partito Democratico, quella del voto sulla richiesta di arresto per il deputato Dem Francantonio Genovese, sul quale pendono varie accuse dall'associazione a delinquere al riciclaggio al peculato. La Camera ieri aveva respinto la richiesta di Grillini di procedere subito al voto su Genovese, facendo slittare appunto il decreto lavoro ad altra seduta, decreto lavoro che poi comunque di fatto slittato ad oggi, e nelle prossime ore ci sarà una riunione di capigruppo sul calendario dei lavori. La previsione è che il voto su Genovese potrebbe slittare a dopo le elezioni europee, come richiesto dal PD. E per ora dalla Camera è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, come richiesto dal PD, dunque con le proteste dei 5 Stelle. Vi ricordo tra l'altro che da oggi, a proposito di decreto lavoro, sono in edicola con Il Sole di 24 Ore una serie di speciali sul decreto. Oggi le pagine dedicate alla riforma dei contratti a termine, domani le novità sull'apprendistato e sabato invece la disciplina per quanto riguarda i contributi. Nel frattempo c'è stato anche il Senato che ha lavorato e ha approvato il decreto cosiddetto pulizie relativo alle scuole con 126 voti a favore, un contrario e 75 astenuti. Consente a 112 dirigenti scolastici della Toscana di restare alla guida dei loro istituti fino al termine dell'anno scolastico. E poi una proroga per i lavoratori impegnati nelle pulizie delle scuole per le regioni Campania e Sicilia. La Camera deve convertire in legge entro il 7 di giugno. Nel frattempo la campagna elettorale, almeno quella di Forza Italia, soprattutto quella di Forza Italia, continua a concentrarsi sulle rivelazioni dell'ex segretario al tesoro americano Geithner. Le mie dimissioni furono responsabili ma non libere. Silvio Berlusconi stamattina replica così a Napolitano sul caso Geithner. Ieri il capo dello Stato aveva definito spontanee le dimissioni del leader di Forza Italia da Presidente del Consiglio ed escluso un ruolo del Quirinale nel presunto complotto ordito a livello europeo, rivelato dall'ex segretario di Stato americano al Tesoro. Nel 2011 sono stato vittima di un colpo di Stato, ribadisce però Berlusconi, che è ospite di Coffee Break. Oggi ha chiesto anche che venga istituita una commissione d'inchiesta per fare luce sulla vicenda. Ci sono dei fatti enormi che necessitano una commissione d'inchiesta. Ritorno a come lei ha chiuso il momento precedente della trasmissione con il titolo dell'unità: Napolitano sbugiarda Berlusconi. Non ha assolutamente sbugiardato me, perché io ho chiesto semplicemente cosa fosse realmente successo nell'occasione del G20. Il leader di Forza Italia è anche tornato a puntare il dito contro la riforma del Senato proposta dal governo, definita un pasticcio, e non ha escluso l'eventualità di tornare assieme al nuovo centrodestra di Alfano. Con certezza, ha detto invece Berlusconi, nel 2018 non sarò io il presidente del Consiglio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a chi ci scrive via SMS, neanche una parola sull'Ucraina, vergogna, calma, stiamo giusto appunto arrivando agli esteri e però iniziamo dalla Turchia. Continua ad aumentare il numero delle vittime dell'esplosione della miniera di carbone a Soma. L'ultimo bilancio diffuso questa mattina parla di 282 morti, tra cui un ragazzo di soli 15 anni. Genitori e parenti non sanno ancora se i 120 minatori che mancano all'appello siano vivi oppure no. La catena umana dei soccorritori, che senza sosta riporta in superficie corpi avvolti da sacchi neri, ha poche speranze di trovarli ancora in vita. Le quattro gallerie della miniera si sviluppano in tunnel strettissimi a 50 metri sottoterra. Sono bastate poche ore dal cortocircuito di un generatore elettrico a 2000 metri più giù prima che l'ossigeno fosse assorbito completamente dal monossido di carbonio. La maggior parte dei minatori è morta soffocata. A due giorni di distanza da quella che è stata definita dai media di Ankara il più grave incidente di questo genere mai avvenuto in Turchia, al dolore delle famiglie si aggiunge la rabbia per la tragedia annunciata. Premier Erdogan, che ieri ha raggiunto la miniera, è stato duramente contestato. Accolto al grido di assassino, i familiari in cerca di spiegazioni, ha risposto con la violenza delle guardie del corpo. L'immagine del funzionario di governo in cravatta e completo gessato che prende a calcio un parente delle vittime rimbalza oggi sui media di tutto il mondo e si unisce alle immagini dei giovani turchi che a Istanbul sono tornati a protestare, ma questa volta distesi in silenzio lungo le strade e sui binari della metro, un modo per identificarsi con i minatori crollati nelle catombe di Soma. Marisa Labanca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per tirare qualche conclusione su questa vicenda, per quanto parziale, naturalmente momentanea e non tanto relativa alla cronaca, a quello che è successo nella miniera, ma quanto alle nuove contestazioni ad Erdogan, abbiamo con noi l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Alberto, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti voi. Allora, che valutazione possiamo fare su quello che è successo ieri e anche su questa immagine che, devo dire la verità, colpisce molto, perché stiamo parlando di un consigliere di Erdogan che letteralmente viene ritratto nel momento nel quale prende a calci un manifestante? Sì, questa immagine, devo dire, che è stata ritweetata a valanga da ieri sera e questa mattina, insieme a tante altre foto e immagini di gente che protestava. Che cos'è la Turchia di oggi? La Turchia di oggi è un paese fragile, un paese che sconta un boom economico straordinario, ma anche il lato oscuro di questo boom economico. Una Turchia dove ha segnato crescite del PIL del 5% l'anno, ma è anche il paese dove accadono più incidenti del lavoro in tutta Europa. E le tragedie dei minatori, questa non è certamente isolata. Sono stati circa 700 morti negli ultimi 30 anni, che poco tempo fa, nel 2010, sul Mar Nero ce ne furono 290. Insomma, è una tragedia che in qualche modo è annunciata, ma soprattutto che cosa fa scandalo? Fanno scandalo le parole parole un po' imbarazzanti, anche sconsiderate, di Erdogan. Già nel 2010 aveva commentato che i minatori erano morti beatamente e che questo è un mestiere dove si muore. E quel discorso che ha fatto ieri a Soma è stato assai irritante per le famiglie delle vittime, ma credo per tutta la Turchia. Non si possono portare ad esempio le tragedie di minatori nella Gran Bretagna del XIX secolo per giustificare quello che accade oggi. Nulla giustifica una tragedia di questo tipo. E grazie anche per questo commento e per questa analisi ad Alberto Negri. Altre notizie dall'estero, innanzitutto quelle che arrivano dalla Siria, perché secondo l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, che dal 2007 si occupa di monitorare le violazioni nel paese, circa 850 siriani, tra cui 15 minori e 6 donne, sono stati uccisi dall'inizio dell'anno nelle prigioni del regime. E gli altri aggiornamenti arrivano dall'Ucraina, appunto, come si diceva, dove la situazione è al momento di stallo, almeno fino a questa sera alle 21, perché le forze di autodifesa filorusse, così si definiscono, del Donbass hanno dato a mezzanotte un ultimatum di 24 ore per il ritiro dell'esercito ucraino dall'autoproclamata Repubblica di Donetsk, minacciando altrimenti l'attacco dei checkpoint in mano alle truppe di Kiev. Il governo di Kiev, per contro, dice di essere pronto ad interrompere l'operazione militare nelle regioni del sud-est del paese se i miliziani filorussi lasceranno le armi. Nel frattempo la Guardia Nazionale ha confermato il sequestro a Donetsk del colonnello Yuri Lebed, che è comandante delle truppe del Dipartimento Operativo Territoriale dell'Ucraina Orientale e di 8 reparti della stessa Guardia Nazionale. Aggiornamenti naturalmente appena ne avremo. E passiamo al Festival di Cannes. Turner è stato un grande artista, un pittore radicale e rivoluzionario. Mike Lee racconta il suo Mr. Turner, secondo film in concorso al Festival di Cannes, a una platea di giornalisti che ha applaudito timidamente alla visione della pellicola, dedicata a una parte della vita del pittore vedutista inglese vissuto tra il 1700 e il 1800. Ottima performance dei suoi attori feticcio, soprattutto Timothy Spall, nel ruolo dell'artista, e magnifica la fotografia di Dick Pope, che ha detto di essersi ispirato ai colori che usava il pittore. Tuttavia, il film è una cadenza continua di magnifici quadri, ma non cattura il cuore come i precedenti, Il segreto di Vera Drake e I segreti e bugie. Ieri un altro bel film in concorso, anche questo con una magnifica fotografia, Timbuktu, dell'africano Sisako, che prende in giro con intelligenza la pazzia dell'estremismo religioso. Oggi in concorso alla Semaine de la Critique, il primo film italiano, Più buio di mezzanotte, di Sebastiano Riso, sulla drag queen fucsia. Cristina Battocletti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cannes. C'è una storia, la storia di un tribunale di Khartoum che ha condannato a morte per impiccagione una donna cristiana di 27 anni, madre di un bambino incinta di 8 mesi. L'accusa è di apostasia. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il decreto lavoro è legge, è stato approvato pochi istanti fa dalla Camera. Brutte notizie intanto per l'economia italiana: il prodotto interno lordo scende dello 0,1% nel primo trimestre contro la crescita dello 0,2% prevista inizialmente. Sugli appalti per Expo arriva anche l'inchiesta della Corte dei Conti. La sezione lombarda decide di indagare dopo gli arresti dei giorni scorsi. Incinta, 27 anni, cristiana, è stata condannata a morte da un tribunale del Sudan. L'accusa è di apostasia. Il tribunale le ha chiesto di rinunciare alla sua fede. Lei ha rifiutato. Roma, maglia nera delle tasse per le imprese artigiane. Secondo CNA, che ha analizzato il fisco locale, nella capitale si tocca il picco di una pressione al 74,4%, uno dei temi che affronteremo più avanti. Intanto, all'ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, preoccupato perché il nome che si fa nell'inchiesta di Expo è quello di Luigi Grillo, e se diciamo solo Grillo ci si può confondere, diciamo che francamente è un po' difficile confondersi in questo caso. Dino Pesole del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Simone. Cosa ci dice questo dato sul PIL? Ci deve far preoccupare? È un dato anche un po' al di là anche delle aspettative, certamente la conferma che la recessione che dura ormai da 3 anni è una recessione profonda che ancora lascia sentire i suoi effetti. Quindi da un certo punto di vista si aspettava un piccolo rimbalzo dopo il trimestre leggermente positivo l'ultimo trimestre dell'anno scorso. Il fatto che sia negativo è, cioè, da preoccuparsi, è anche vero che l'intera eurozona che soffre. I dati di oggi di Eurostat non sono particolarmente brillanti, ma questa è una magra consolazione. Noi dobbiamo rilanciare i consumi, la domanda interna è ferma, l'inflazione è ferma. Dino, vorrei capire da te se c'è un rischio di impatto sui conti pubblici, sul mitologico 3%, che essendo un rapporto tra deficit e PIL, naturalmente si misura anche sul PIL. Certo che c'è un rischio, perché il governo quest'anno ha previsto una crescita dello 0,8%, mentre l'OCSE già ce l'ha ridotta allo 0,5%, tanto per dire, la Commissione europea 0,6%, e a fronte di questa previsione di crescita prevede un deficit al 2,6%. Ed è tutto evidente che se cresciamo di meno l'economia ristagna, il deficit aumenta, e quindi il rischio c'è. Il rischio c'è, anche se è un po' presto forse per poterlo dire, forse bisognerà attendere almeno il secondo e terzo trimestre e poi eventualmente correre i ripari in autunno. Questo quindi potrebbe condurre a una correzione di bilancio? Certo, in autunno sicuramente sì, perché se il ciclo economico non si inverte, anche grazie alle misure che il governo ha varato e dalle quali si attende una spinta all'economia, e questo avverrà dopo l'estate. Se questo non avviene, certamente occorrerà una correzione anche dei conti, perché sennò sforiamo il 3%. Grazie Dino Pesole del Sole 24 Ore, buona giornata, e saluto Anna Sambo, che è responsabile dell'AVSI, che è un ONG nel Sud Sudan. Buongiorno. Buongiorno. Naturalmente forse non ci risponderà proprio immediatamente, perché c'è un minimo di scarto, diciamo così, di 2-3 secondi a causa della distanza, per così dire. Vogliamo parlare della vicenda della donna, ve l'abbiamo raccontato anche nei nostri titoli, condannata a morte per impiccagione, madre di un bambino e incinta di 8 mesi, l'accusa è di apostasia. Questo avviene in Sudan. Dal 2011 il Sud Sudan è un altro stato che non fa parte del Sudan, è indipendente dal 2011, e però, Sambo, voi avete una percezione abbastanza chiara di quello che succede appunto in Sudan. La persecuzione dei cristiani è così forte, sono così frequenti questi casi? Ma a dire la verità, noi dal Sud Sudan qui riceviamo delle notizie, ecco, anche questa notizia di cui state parlando adesso l'abbiamo ricevuta abbastanza in ritardo rispetto ai tempi di diffusione dell'informazione in Europa. I rapporti tra Sud Sudan e il Sudan ci sono. E è chiaro, il contesto è molto diverso, nel senso che il Sud Sudan è un paese a maggioranza cristiana, per cui noi direttamente non veniamo a contatto con episodi di questo genere. Certo è che conosciamo bene il passato, la storia del Sudan, che prima era un unico stato, e sappiamo bene come la guerra che c'è stata tra Sudan e l'attuale Sud Sudan sia stata proprio improntata su differenza religiosa, per cui diciamo che quello che sappiamo è che sicuramente questa della differenza religiosa e del conflitto che può avere un'impronta religiosa è una questione assolutamente, assolutamente attuale, e sappiamo che appunto che in Sudan c'è una vicende di questo genere. Saluto Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno Impagliazzo. Buongiorno. E benvenuto. Tra l'altro, se non sbaglio, proprio stasera o quando succederà che si spengono le luci del Colosseo, proprio, come dire, per ricordare le persecuzioni dei cristiani nel mondo. Sì, abbiamo preso questa iniziativa, la comunità di Sant'Egidio assieme alla comunità ebraica di Roma, per esprimere solidarietà a partire da questa sera alle 20 al Colosseo con i cristiani che vivono in stato di persecuzione, di difficoltà o di privazione della libertà. Naturalmente il caso di cui stiamo parlando, che è quello di Maryam, una giovane donna di 27 anni che ha solo la colpa di essersi sposata con un cristiano del Sud Sudan e di non aver voluto, appunto, di aver cambiato la sua religione, di non aver voluto rinnegare questa scelta. Il Sudan è un paese in cui si applica la Sharia, dunque queste pene sono previste, ma quello che noi chiediamo anche nella manifestazione di questa sera è che tutti i paesi del mondo accolgano il grande diritto della libertà religiosa. C'è anche un occhio, immagino, in pagliaccio sulla vicenda delle ragazze nigeriane rapite. Da dire che le informazioni sono discordanti da quel punto di vista, perché le organizzazioni cristiane in Nigeria sostengono che sono in maggioranza cristiane, in realtà, da quello che ci ha detto Amnesty, sarebbero in maggioranza musulmane, ma, come dire, poco importa da questo punto di vista. Immagino che l'occhio sia anche su di loro. Sì, guardi, il problema di fondo è che in ogni guerra purtroppo le prime vittime sono le persone, diciamo così, più deboli, e quindi in questo caso queste giovani ragazze subiscono una grandissima violenza. Noi penseremo a loro, penseremo alla Siria, con bene in mente padre Paolo Dall'Oglio, nostro gesuita rapito ormai da diversi mesi in Siria, di cui non si sa più molto, e di tutti i cristiani che stanno soffrendo in quel paese. Avremo un testimone siriano, cristiano di Aleppo, che ci parlerà delle persecuzioni verso i cristiani, ma anche della distruzione dei luoghi di culto. In realtà questo tema è un tema che tocca tutte le religioni, perché oggi le religioni, ed è molto significativo che al Colosseo saremo cristiani, musulmani ed ebrei, vogliono ribadire che al cuore del messaggio della fede c'è la pace e c'è l'amore, e che mai la religione deve essere sfruttata o utilizzata per promuovere la violenza. Questo è il cuore del messaggio che vorremmo dare questa sera dal Colosseo. Per chiudere, ancora con Anna Sambo, responsabile AFSI in Sud Sudan, per ritornare un po' alla domanda che le avevo fatto all'inizio. Lei ha sentito naturalmente la necessità di premettere che si trova in un altro posto rispetto al Sudan, però insomma vorrei capire che segnali ricevete, perché non siete l'unica organizzazione che si trova là, ci sono anche delle missioni, appunto, e le notizie che raccogliete che arrivano da Khartoum e dal Sudan. Sì, allora la situazione delle missioni in Sud Sudan è in questo momento che è particolarmente drammatica. Le missioni del Sud Sudan sono quasi tutte al nord del Sud Sudan, quindi proprio ai confini col Sudan, e quello che è successo negli ultimi mesi è stata una totale mancanza totale del rispetto di questi missionari che da 30 anni ormai sono presenti in quelle zone che prima erano parte del Sudan, e quindi un non riconoscimento di un ruolo neutrale di una missione. Grazie ad Anna Sambo, responsabile AFSI in Sud Sudan, e Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio. Ci fermiamo, c'è una pausa come sempre, poi c'è la borsa e poi più avanti parleremo di tasse locali, perché oggi ci sono i dati della CNA che sono molto interessanti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sono degli ultimi minuti delle notizie che arrivano sulla vicenda del caso Genovese. Su Genovese voteremo a favore dell'arresto, come abbiamo fatto in giunta, e chiederemo il voto palese, lo ha detto il capogruppo del Partito Democratico Roberto Speranza. Poi ci sono le brutte notizie per l'economia italiana. Il prodotto interno lordo è sceso dello 0,1% nel primo trimestre contro la crescita dello 0,2% prevista inizialmente. Sugli appalti per Expo arriva anche l'inchiesta della Corte dei Conti. In Turchia si continuano a contare i morti dell'esplosione nella miniera. Sono quasi 300. È il momento della borsa. Borse in diretta. Milano, giù dell'1,75% sul FTSE MIB, dell'1,74% sul FTSE All Share, con un'Europa che è positiva a Francoforte, anche se di poco, più 0,01%, negativa a Parigi, di poco, meno 0,20%, e positiva a Londra, più 0,08%. Olivia Zancaner, Radio Cori, il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Quanto conta questo dato del PIL così inatteso sul calo di Milano? Diciamo che la borsa milanese ha iniziato ad accelerare al ribasso proprio dopo la diffusione del dato sul PIL del primo trimestre. Le attese erano infatti per un'economia ancora in rialzo dopo la crescita registrata negli ultimi tre mesi del 2013. Al momento lo spread, che stamattina era pressoché stabile, tratta in rialzo verso quota 157 punti base, e infatti essere maggiormente penalizzato dalle vendite e dal calo di diversi affari è il comparto bancario, con la peggiore performance, che è quella realizzata da UbiBanca, che cede quasi il 6%. UbiBanca cede il 6%, naturalmente immagino che pesino anche le indagini. Negativo tutto il settore bancario: Mediolanum meno 5,10%, Popolare di Milano meno 5%, Popolare Emilia Romagna meno 4,36%, è positiva solo Generali, più 0,24%, insieme a Moncler, più 0,16%. Sì, è positiva Generali. Questa mattina, prima dell'apertura dei mercati, ha dato i conti del primo trimestre, che sono risultati sopra le attese. I primi tre mesi dell'anno sono infatti chiusi con un utile netto in rialzo del 9,4% a 660 milioni di euro. Moncler, che segna appunto, come dicevi tu, più 0,16%, oggi pubblicherà i conti, che sono attesi alla chiusura del mercato. Gli analisti si aspettano un buon trimestre con una crescita sostenuta del fatturato e stime degli esperti allineate rispetto a quanto previsto. Grazie Olivia Zancaner e ai colleghi di Radio Cori sulle 24 ore anche per oggi. Buona giornata. Buona giornata anche a voi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Claudio Carpentieri, responsabile politiche fiscali e societarie di CNA. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno. Allora, vi chiamiamo perché avete diffuso un rapporto molto interessante stamattina e doloroso per le imprese artigiane, per così dire, perché si parla di tassazione locale e il picco è Roma. Sì, purtroppo sì. Roma è al primo posto dei total tax rate sulla piccola impresa, con un 74,4%, a fronte di una media nazionale del 63,1%. Senta, ma come si arriva al 74,4%, Carpentieri? Per Roma in particolare pesa tantissimo l'IMU dovuta sui gli immobili strumentali delle imprese, perché a Roma in particolare, come in altre città del resto, i valori catastali degli immobili strumentali sono molto alti e anche forse al di sopra del valore commerciale. Ma per Roma in particolare conta tantissimo la tassazione sui rifiuti, perché a fronte del valore più basso della tassazione di rifiuti registrato a Cuneo per 600 euro sugli immobili strumentali di queste imprese, mm-hmm, tipo che abbiamo analizzato, a Roma se ne pagano 6.500. 6.500? Perché dimensione di impresa più o meno? Allora, l'impresa che abbiamo considerato è un'impresa individuale con 5 dipendenti, un laboratorio di 350 metri quadri e un negozio di 175 metri quadri, che è in zona semicentrale secondo le zone OMI. Ha un fatturato di 430.000 euro, un reddito d'impresa di 50.000 euro. Queste sono le caratteristiche principali della nostra impresa su cui abbiamo focalizzato le analisi. 6.500 euro l'anno contro magari appunto una Cuneo, tutti gli artigiani si trasferiranno a Cuneo a questo. No, ma poi mediamente sono 2.000 euro, mediamente nazionale, insomma, l'importo della tassazione di rifiuti. Senta, cosa rientra in tutto questo calcolo appunto di tasse? Allora, rientra l'imposizione erariale, che comprendiamo IRPEF per l'impresa individuale, ma anche i contributi pensionistici, perché comunque incidono sul reddito disponibile anche se dopo fanno pensione, i contributi dell'artigiano intendo. Per la tassazione regionale entra l'addizionale regionale IRPEF più l'IRAP, ovviamente la famigerata IRAP. Per la tassazione locale entra l'addizionale comunale all'IRPEF, entra la TARS, insomma la tassazione sui rifiuti, entra in particolare l'IMU, ma entra anche la TASI dal 2014, perché non dimentichiamoci che gli immobili strumentali pagheranno sia l'IMU che la TASI. Senta Carpentieri, gliela butto là e prevengo gli ascoltatori che su questo ci scriveranno al 349-238-6666. Allora, quando uno paga il 75% di tasse, ha dei dipendenti, deve mantenere anche se stesso e la sua famiglia, unica soluzione è evadere. Purtroppo è la realtà, ma quello che dobbiamo fare noi, e noi ci faremo parte per questo, che la realtà deve essere modificata per consentire a tutti di pagare le tasse, ma a tutti, per evitare concorrenze sleali. Adesso una variabilità così, purtroppo, dico io purtroppo, ma ci credo veramente, spinge l'evasione, non deve essere così, perché la prima persona ad essere in difficoltà ad evadere è lo stesso artigiano, che nessuno lo piace fare. Ma 74,4 oggettivamente è veramente troppo. Quindi bisogna cercare di ridurre la tassazione automaticamente all'aumentare del reddito, con un sistema che abbiamo anche ideato con una proposta di legge concreta. Questo che occorre fare. Ma più presto, non c'è più tempo. Senta, è messa male anche Firenze, eh? È messa male anche Firenze, lo sottolineo anche lì, per gli elevati valori catastali degli immobili. Quando uno stressa la tassazione che avverte sul valore catastale, e il valore catastale è molto alto, è evidente che l'IMU su quegli immobili diventa stressata, no? Però io dico sostanzialmente, per essere sincero, se il valore catastale è molto alto, siccome il prelievo è fatto da valore più aliquota, uno poteva decidere di abbassare l'aliquota per non ammazzare le imprese, cosa che non è stata fatta evidentemente. Ultima cosa che le voglio chiedere è questo passaggio di tasse, no? Dalla Tari alla Tasi, una legnata. Una legnata, perché questi benedetti servizi indivisibili, no? Prima c'era, come dire, giustamente dice, l'addizionale Tares, no? Che costava 157 euro, no? Perché era sul metro quadro, era 30 centesimi di euro al metro quadro. Adesso la Tasi, calcolata con delle proiezioni, ma mi arriva a 438 euro, cioè sui servizi indivisibili un aumento del 179% mediamente in Italia, cioè si nasconde un ulteriore prelievo fiscale. Grazie Claudio Carpentieri, responsabile politiche fiscali e societarie di CNA. Noi, prima di chiudere, innanzitutto una risposta ad un SMS. Non abbiamo detto se c'è la possibilità che la donna del Sudan possa essere salvata. Francamente non lo sappiamo nemmeno noi. La sentenza, a quanto pare, è di questa mattina. E poi ci sono delle altre notizie che stanno arrivando in questi minuti. Innanzitutto la storia di un autista di un PM della Procura di Torino che si occupa dei NoTav è indagato per simulazione di reato. Aveva denunciato di essere stato aggredito da un gruppo di sconosciuti. L'episodio risaliva, secondo la denuncia dell'uomo, allo scorso 11 aprile. Poi c'è una dichiarazione calcistica, quella di Giuseppe Marotta, direttore generale della Juventus, che dice: la priorità è trattenere Conte, che è un patrimonio della società, ha dimostrato di essere uno dei migliori ed è nostro dovere tenercelo stretto. Questo sarà naturalmente materiale anche per tutti i convocati in onda a partire dalle 14. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Mi sembrava giusto partire con il silenzio, l'omaggio ai caduti. I caduti in questo caso sono i caduti dell'11 settembre. Perché? Perché questa mattina si inaugura qui a New York, a Manhattan, nel luogo dove le due torri sono state distrutte, il museo dedicato all'11 settembre. Il presidente Barack Obama è già in città, la città tra l'altro è in uno stato di assedio, devo dire veramente in uno stato di assedio. Qui attorno al nostro ufficio ci sono transenne, macchine della polizia, poliziotti sparsi in giro, misure di sicurezza straordinarie naturalmente, perché l'occasione di disturbare questo momento importante sul piano emotivo, sul piano dell'unità nazionale per gli Stati Uniti, vi dicevo, l'occasione di disturbarlo è ghiotta, e dunque è un momento in cui gli americani si raccoglieranno attorno

Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo avuto una notizia purtroppo molto, molto triste, perché si è suicidato Malik Bendjelloud, che è un regista svedese, ma è soprattutto il regista di Searching for Sugarman, un documentario su questo straordinario cantante di Detroit, Sixto Rodriguez, che era sparito dalla circolazione, se non per essere invece trattato come un idolo in Sudafrica. La notizia tristissima, vi dicevo, è il suicidio di questo giovane regista che aveva 36 anni, e dunque mi sembra giusto dedicare comunque a lui la canzone di Sixto Rodriguez, Sugarman. Sugarman, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugarman, Sugarman, Sugarman, Sugarman, Sugarman, Sugarman, Sugarman. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ultima notizia prima di chiudere, appena battuta dalle agenzie. Altri esponenti di Forza Italia potrebbero entrare nell'indagine della DDA di Reggio Calabria che ha portato all'arresto di Claudio Scajola. La procura, secondo quello che riferiscono le agenzie, starebbe cercando di ricostruire la rete di legami tra Amedeo Matacena e altri membri del partito fondato da Silvio Berlusconi. È veramente tutto per Effetto Giorno. Per scriverci, come sempre, effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, il mio account Twitter, se volete, Simone Spezia. Ringraziamenti alla fine Filippo Aureggi in regia, Laura Faggin in assistenza e in redazione, come sempre tutta la redazione di Radio 24. La trasmissione torna domani alle 13. Per quanto riguarda noi, ci risentiamo tra un attimo con GR24.